Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy, and there ain't no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following you. Più che Dylan sembrava Gad Lerner. Martedì abulia. Cos'è martedì abulia? Una formula nuova. È il disturbo del giorno, abulia. Abulia. Ah, ma già martedì abulia, capito? Ah, sì, abulia. Sì, sì. Ci arrivi anche tu, piano piano. No, non mi ricordavo più della tua scaletta settimanale, lunedì stanchezza, martedì abulia, eccetera, eccetera. Mercoledì gastrite, giovedì orticaria e venerdì sto bene. Quindi oggi sei solo abulico, che meglio di domani che avrai la gastrite, quella è più fastidiosa, diciamo. Bevo l'acqua al finocchietto. E cos'è l'acqua al finocchietto? È acqua in cui hai messo a mollo per ore e ore un finocchio crudo. Crudo, Il finocchio è eccezionale per i disturbi gastrici. Bene, non siamo Escher, no, nemmeno a Elisir, non siamo né a Benescher né a Elisir, come il vecchio professor Mirabella, che sicuramente ci starà ascoltando. Ciao professor Mirabella. Siamo invece in un asilo di Milano, in mezzo ai bambini sanissimi, solo che io e Kappa siamo due adulti, ormai anche abbastanza avanti con l'età, e quindi eccoci a parlare di rimedi contro la gastrite, che è pur sempre meglio che parlare di rimedi contro il problemino H. No, no, il problemino H no, non si deve nominare. Calmati, problemino Kappa. H. Ho fatto un esempio. Sì, così, ma giusto? Sono suscettibile, Drago, tutto quello che riguarda il problemino H mi mette una certa ansia. Allora, per chi non lo sapesse, il problemino H anche un nome con cui è conosciuto comunemente, però tutti, Drago, non vogliamo pronunciare quella parola in quanto potrebbe portare sfiga, oltre a essere brutto da sentir dire per radio. In effetti è difficile che il cazzeggio radiofonico, così variegato e infinito nelle sue manifestazioni quotidiane, possa vertere su un argomento tabù come il problemino H. Oddio, ormai certi temi di certi zoo radiofonici sono oltre la scatologia e il problemino H, però è vero che è meglio non evocare quel disturbo col suo vero nome. Ecco, però ricorda anche il marito di Carmen Russo, te lo ricordi, che piangeva in TV in diretta da qualche isola del Pacifico? Era l'isola dei famosi. Può darsi, sì, vagamente. Sai perché piangeva? Sì, vagamente anche quello. Per il dolore causato dal problemino H. È vero, ma in quel caso il problemino H assurse anche agli onori della cronaca proprio dappertutto. Per qualche giorno si parlava solo di quello. Vorrei vedere. Il velo in qualche maniera era caduto, ma poi una volta che Turchi è uscito, il marito di Carmen Russo, mamma li Turchi, non se n'è più parlato e il velo si è riformato. Per forza, era l'isola dei famosi, mica un'ora con il proctologo. Però guarda che anche dopo l'isola, Enzo Paolo Turchi è stato per un certo periodo una specie di portatore di speranza per tutti quelli che soffrivano di problemino H. Milioni di italiani che soffrono di questo disturbo, e ne soffre anche un amico che conoscete tutti, ne soffriva anzi per la verità, Enzo Paolo Turchi. Ben ritrovato, Enzo Paolo. Buongiorno. Che oggi sta comodamente seduto in poltrona, ma fino a non molto tempo fa questo insomma gli riusciva abbastanza difficile. Perché non dicono Paolo, il nome della malattia, il problema, no, senti, dieci il problema, anni fa. Dieci anni fa. Malattia. Ed è un problema che tu per molto tempo ti sei portato avanti in silenzio, perché come spesso accade insomma si ha anche un po' di imbarazzo, no, a parlarne, a... Per vergogna e per paura del dolore, per paura anche poi dell'intervento. Mi informavo un pochino e tutti mi dicevano, operati, però, poi... dopo l'intervento sarà durissima, guarda, io ho sofferto moltissimo, mesi, poi dopo ho avuto ricadute, e quindi la paura era tanta per il dolore e poi soprattutto la vergogna, perché certo, ancora è un argomento che è un pochino è preparato, un che se ne parla poi poco, sentiamo che insomma è talmente comune poco, che per la verità se ne parla troppo poco, Draghi, in fondo voglio dire, tu hai tirato fuori questa cosa del problemino H, è tutto molto brutto, però in effetti anche parlarne in TV insomma vedi che... facilita la soluzione del problema. Beh, in qualche comunque, modo, no? Vabbè, oggi tu sei abulico, quindi dimentichiamo le tue passate esperienze col problemino H. Sì, è stata che una anche loro di... non lo nominano, non mai lo nominano, non dicono mai, dicono solo è una parola tabù, problemino H. Vabbè, e quindi torniamo alla tua abulia e quindi cerca di superare l'abulia, che poi non è nemmeno un disturbo, una malattia, ma è solo uno stato d'animo. Ma tu cosa sbaglio? Ne sai? Non so, cosa ne sai tu? Non sarà una malattia, ma intanto no? Cosa? Cosa? Resto inutile e immobile per l'intera giornata, Drago. Sono, infatti, sono abulico. Ma scusa, ma quindi ti succede solo di martedì? Ovviamente, è il giorno più lontano dal venerdì. Però avevi inaugurato il Mardi Gras per esorcizzare lo spettro del martedì. Era solo un sollievo temporaneo, no? In realtà di martedì va bene essere abulici. Vabbè, e quindi? E quindi mi metto qui in un angolo, buono buono, me ne sto zitto, fisso dritto davanti a me. Eh beh, allora dondolati anche un po', così siamo a posto, sei proprio... Cos'è che devo fare? Ti dondoli così, no? Hai ragione. Bello, eh? Non ci avevo pensato. Devo andare avanti da solo. Drago, se fossimo i Griffin andremo avanti altri 10 secondi. E allora dai, 10 secondi. Carmelo, 10 secondi. Anche voi all'ascolto, per superare lo stress della giornata, mettetevi così su una sedia e fate insieme a me. Dai, Drago, anche tu. Però dopo un po', cap, essere abulici, però è anche un po'. Quasi Natale, K, hai visto? Ma cosa dici? Ma sì, ormai in città è cominciato il gran casino di luci addobbi, più di un mese prima, festeggiamo un Natale lunghissimo come ogni anno, non sei contento? Chiedere di essere contento. Sono abulico, come faccio ad essere contento? Ti parlo di un argomento che ti solleverà allora, dai. Proviamo. La crisi della Grecia. No, vabbè, ma Tito. Ma che roba è? Ma la crisi della Grecia è la cosa più deprimente del momento. Lo so, adesso però... tu vuoi tirarmi su con la crisi della Grecia? Ascolta, dai, in Grecia, dicevo, con la crisi, alle scuole mancano quasi del tutto i finanziamenti. E così un'associazione di genitori ha fatto una specie di appello pubblico per poter acquistare cose semplici come libri, fotocopiatrici, eccetera. E chi ti risponde? Non so, Onassis. Beh, però, Onassis è morto. Ah, già. L'unica persona che risponde prontamente inviando un assegno di 3.000 euro è una imprenditrice, la signora Sula Alevridou. E cos'è? È una stilista? No. Una diciamo, dell'editoria? Editoria. Opera nel sociale, è la proprietaria di due famosi bordelli. Il Villa Erotica e la Casa della Storia di Sula. In Grecia, infatti, la prostituzione è assolutamente illegale. E mentre tante altre imprese falliscono, sono sull'orlo della crisi, il business dei bordelli va a gonfie vele. I soldi la scuola li avrà presi volentieri, scusa. Però poi qui viene il bello, perché il direttore provinciale dell'istruzione, un certo signor Giorgio Spana qualcosa, è lungo, il signor... Panayotopoulos dichiara che quello che è legale non sempre è morale e così obbliga la scuola a restituire la donazione tra le proteste di tutti perché 3.000 euro ce la dico. Ma è sbagliato, è un comportamento ipocrita, discriminatorio nei confronti tra l'altro di una filantropa. I ricchi in Grecia vanno a puttane, va bene. Di conseguenza anche le puttane in Grecia sono ricche perché i ricchi vanno a puttane e pagano le puttane, sono ricche. Tutti i greci sono ateniesi. Una cosa del genere. Allora, se le puttane vogliono fare beneficenza, perché la loro beneficenza deve andare a puttane? Mancano 21 giorni alla fine del mondo.